mantenere, capito? C'ha più acuti. Ah, ecco. Anche con gli acuti a me già piace la radio. Entra meglio con gli acuti. Ah. Veramente, guarda. E allora, così è fa che canale, perché alla fine cazzo mi sta venendo un aiete e vabbè, lasciamo perdere. Grazie, ho cambiato idea. Ehi, a parte la voce alla radio, ehi, papà, su Sadugas, mamma mia! Non so, ma adesso sia il connettore. Quando si sta? Sto chiudendo il tutto. Che strano che cazzo, non so, è un bel strano comunque, la verità. Sì, quindi dove andare? così e poi la direzione è comunque ed è un problema. È meglio stare a riposo, tranquilli, sereni, senza carne in campagna, una barca annata che da voi si fa delle ore piccole e non va bene. Per chi lavora come te, un lavoro massacrante, nella notte vuole anche riposo. Giorni proprio ha piovuto, ha fatto soltanto lui stamattina c'era un freddo, ma ti dico, cazzo, di botte invernale, cuffiettina, c'era un bel freddo, io tutte le mattine devo fare tutti i controlli, salire sopra, scendere, aprire, chiudere, infatti ci ho mollato il dito quando ci ho guardato perché c'era un freddo cane, ci stava un po' bene. Il direttore deve ricevere. sentito. Dovrebbe essere partito. Sì, ma era una cosa decinata, grazie. Mamma mia, ma io dopo non mi faccio, ma rimane auto in vita. Sì, fatti, fatti. Non può entrare, chiamare, mi serve un controllo, partecipare al consiglio, vabbè. Infatti c'è proprio così. Aspetta, va bene, perché mi sono alzato con questo mal di testa, non voglio mi curico, dove andare? Dove vuoi andare? Mi curico e mi alzo mal di testa, infatti buio. E io so qua, si è qua, non ti preoccupare. Vai, vedi da lì, vedi. Metti, prova a vedere la posta, vai, che è un peccato, perché la lavorazione è bella, perfetta, però ogni tanto vai che ti innesco, guardi, tira. Se non ho capito, che fai, non è proprio, se dal microfono o dal, ecco, non so, là, nel jack, il microfono. Ho capito, ho capito, io... L'importante è che si possa risolvere, dai, poi vedere il resto che va bene. Se continua a vedere la parola, non sarà fatta a calcolare. Se lo vuoi, se è vero, se continua così, non se ce l'hai, ma fa sostituirlo. Perfetto, così di come esce.